Credo che tutti abbiamo una storia che chiediamo di ripetere ai nostri genitori. Un episodio che loro raccontano volentieri e che noi stiamo a sentire ogni volta con un gusto maggiore, come se assaporassimo sempre meglio i dettagli, le sfumature, come volere ripercorrere quel pezzo di vita che ormai ci appartiene. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e straordinariamente 15 minuti. Questa è Radio 24. Oggi è un qualunque lunedì, 16 maggio del 2011. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Mio nonno si chiamava Antonio. Aveva i baffi e aveva perso tutti i capelli qui, nel centro della testa. Molti anni prima di perderli, mio nonno era stato in Libia. Sparava con i cannoni. Cannoniere capo, 3° reggimento, fanteria. Seconda guerra mondiale. Era tornato a casa dopo 3 anni, quando una scheggia di una granata gli si era infilata nella mano destra. Era tornato con un foglio di congedo illimitato e una medaglia al valore militare. Una medaglia che l'esercito gli aveva dato perché, e cito testualmente, nel cuore della battaglia rimaneva alla testa del suo manipolo di uomini, combattendo fino allo stremo delle forze e al totale disfacimento del suo mezzo da combattimento. Al suo ritorno a casa, nella piazza del paese, lo aspettavano gli amici, il sindaco di Trecate e mia nonna, che non lo vedeva da quando si erano sposati. Insieme fecero mia mamma e lui lavorò all'archivio municipale di Novara fino alla pensione. Da mio nonno non ho mai sentito grandi racconti di guerra, tipo battaglie campali o geste eroiche. Però anche lui aveva un racconto rituale. Un racconto che veniva fuori durante i pranzi, ad esempio, durante le cene o riunioni familiari. Uno di quei racconti senza il quale la festa non sembrava degna di essere chiamata festa. Ecco, la sua storia di rito era questa qua. Dopo una notte di marce forzate, il suo battaglione in cima ad una duna, nel deserto, si trova davanti un camion tedesco abbandonato dall'esercito che batte in ritirata. Loro sono stremati, sono affamati, non mangiano da 3 giorni. Aprono il camion e ci trovano cibo. Ci trovano 3.000 barattoli di mostarda. Ecco, quello che successe dopo agli stomaci e agli intestini di quei militari, compreso quello di mio nonno, ecco, questi erano dettagli che lui fortunatamente ci risparmiava. Ricordo però che dopo quel giorno lì mio nonno non toccò mai più una confezione di mostarda in vita sua e che al più fortunato dei suoi commilitoni la diarrea durò solo 2 giorni. Eravamo tutti molto affezionati a quel racconto e anche ora che mio nonno non c'è più da un sacco di anni, ogni tanto io lo chiedo a mia nonna di raccontarlo, o semplicemente lo racconto io, facendo quello che lui faceva già di suo, infarcendolo di nuovi dettagli, piccole storie collaterali o sviluppi nuovi e inaspettati. Tutti quanti però in famiglia hanno qualcuno, hanno uno zio, un papà, hanno un nonno, una nonna che ad ogni ricorrenza, o anche solo quando ne ha voglia lui o lei, tira fuori il solito vecchio racconto, quello che tutti già conoscono ma che tutti ascoltano con piacere, perché raccontare significa un po' riviverla quella storia. Qual è il racconto rituale che viene sempre fuori nella vostra famiglia? Qualunque esso sia, il numero per telefonare anche oggi che cominciamo con un quarto d'ora dopo, è sempre quello, è 800240024 per chiamare in diretta, oppure per mandare un sms è 349-238-6666. Avete presente quelle situazioni in cui ci si ritrova lì e a un certo punto qualcuno dice: dai nonna, nonna, racconta com'è la storia, la sanno tutti quella storia lì, però ci si prova, com'è la storia del zio, ti ricordi quando raccontavi? E c'è qualcuno che comincia: sì, dai, l'ha già raccontato. Invece qualcuno che lo vuole sentire e comunque c'è un piacere nel raccontare e nel sentire quei racconti lì, quelle piccole storie che arrivano da quella persona della famiglia, che rende il tutto un po' più come: ah, siamo a casa, è la solita festa, non è cambiato nulla. 800240024. Marco mi scrive: il mio povero nonno primo salvò la vita all'allora re d'Italia, fermando il corteo prima che lui attraversasse un ponte minato. Magari questa storia non era vera o non era esattamente così, però anch'io me la sarei fatta raccontare 1000 volte da mio nonno. Le storie appunto sono alcune epiche, tipo questa ad esempio, oppure quest'altra che mi scrive: è vera. Mio nonno moldavo raccontava quasi sempre l'episodio successo durante la Seconda Guerra Mondiale. I russi che volevano fucilare suo padre e sua madre caduta in ginocchio davanti ai loro sguardi senza pietà e davanti ai loro fucili, chiedendo di non farlo per i figli e per lei. Alla fine non l'hanno fatto, hanno preso soltanto il carro e i buoi, il grano e tutto quello che c'era da mangiare. Mio nonno Pietro aveva 5 anni all'epoca ed erano 7 in famiglia. Lui non c'è più, ma la sua memoria vive sempre attraverso le storie che ha continuato a raccontarci. Ecco, storie epiche oppure storie noiose, ad esempio. Ci sono, sapete, che queste sono le peggiori. Emilio, mio padre ha sempre vissuto a Catanzaro, tranne che nell'anno del militare fatto in Friuli. Lui racconta sempre di quando, negli anni 50, andò per la prima volta a Milano a visitare la fiera campionaria con i suoi colleghi. E dopo pranzo, e dopo pranzò magnificamente in un'osteria chiamata Osteria della Pasta e Fagioli, perché poi i dettagli sono precisissimi. L'ha raccontata tante di quelle volte che ormai siamo noi a raccontarla al posto suo. Ora, cosa c'è di interessante nel fatto che viene a Milano? Niente, però sono quelle piccole storie che non si riescono a raccontare. Storie magari anche un pochettino malinconiche. Tatiana mi scrive: mia madre raccontava spesso la storia di suo nonno, che è morto di infarto mentre stava seduto sull'autobus. Ha solo chiesto gentilmente al vicino se poteva appoggiarsi un attimo e se n'è andato. 800240024 349-238-6666. Qualunque sia la vostra storia ricorrente, vi leggo questa, poi vi racconto invece la mia, quella di ieri. Storia di spionaggio. 1950. Papà canta e suona al mandolino con due chitarristi che la accompagnano durante la prima serenata sotto il balcone dei genitori di mia madre, conosciuta 2 mesi prima. Uno dei due chitarroni, lo chiama così, dopo 3 giorni viene arrestato ingiustamente per rapina a mano armata. La mamma rimane segregata in casa, papà tiene duro e porta arance al chitarrone ingabbiato. Dopo 2 anni si sposeranno, il chitarrone scagionato. Amor omnia vincit. 800240024 349-238-6666. La storia ricorrente della mia famiglia, invece, è quella di mio padre e della Bianchina. Sei molto cosciente del tuo valore, hai un'elevata stima di te stesso. Tutto ciò, unito all'orgoglio che ti contraddistingue, ti spinge a ben operare, ad essere sempre all'altezza della stima che hai per te stesso e che gli altri hanno per te. Hai un naturale ruolo di leader, sei portato a raggiungere posizioni di comando e di prestigio. Hai anche delle doti da attore e da estrione, perché il tuo egocentrismo ti porta ad accentrare l'attenzione degli altri sulla tua persona. Ti senti l'unico autorizzato a parlare di te, cosa che fai ben volentieri. Potresti essere di carnagione chiara, con i capelli biondi, la testa leonina importante, capelli al vento, aspetto distinto. Sei un gran lavoratore, spronato dal desiderio di guadagno e sicurezza, così da soddisfare le tue svariate esigenze e infatti apprezzi molto benessere e comodità. La casa per te è molto importante. Hai bisogno di sentirti comodo, sereno nel tuo territorio. Anche l'amore è fondamentale, ma essendo importante per te il possesso, attento a non considerare le persone che ami come tuoi beni e proprietà. Apprezzi la buona tavola, l'arredamento, i mobili panciuti, pieni di provviste e di cose belle, l'opulenza. Gradisci la musica, in particolare melodica e operistica. Hai un gran senso della famiglia, in particolare provi un profondo attaccamento a tua madre. Ritieni che la tua casa e la tua famiglia siano il tuo rifugio e il tuo nido. Spesso con questa configurazione si possono avere frequenti cambiamenti di residenza. Hai tantissima energia, sei molto competitivo e spesso ti dedichi a qualche sport. Se hai delle componenti scorpione nel tuo oroscopo, allora puoi anche dedicarti alla borsa o all'alta finanza. Prevedi sempre in anticipo come andranno le cose e se le cose non vanno come previsto, allora sei pronto a cambiare il tuo pensiero. Arlecchino è nato anche lui di mattina come te. Non è che per caso hai la pressione bassa? Io trovo che l'oroscopo sia sempre molto interessante. Non perché predice il futuro, non perché delinea un profilo che sia sempre quello giusto, ma per il semplice fatto che è una specie di copione della tua giornata. Anche se poi improvviserai di fronte a ogni situazione che ti si presentano davanti in qualsiasi momento del tuo giorno, leggere la mattina che la salute è a posto, che il lavoro sarà difficile ma soddisfacente, che l'amore ti riserverà qualche sorpresa, è un modo per tranquillizzarsi che tu non devi pensare a niente e che qualcun altro ha già pensato per te. Ieri era il compleanno di mio padre. Lui non ha mai creduto agli oroscopi. Però Io e mia sorella abbiamo inserito la sua data, l'ora e il luogo di nascita su un sito che calcola il profilo astrale e quello che abbiamo trovato era molto simile alla realtà. Quindi ce lo siamo stampati e gliel'abbiamo letto. Lui ha sorriso, ha detto che effettivamente non era sbagliatissimo. Peccato che lui fosse nato la sera e non la mattina. E questo ha un po' smontato tutta la nostra teoria. Però ve l'ho letto comunque perché se qualcuno di voi è nato alle 11 del mattino del 15 maggio del 46, sappia che questo è il suo profilo astrale. Look out your window, I can see his light. If he can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa or he'll get us locked up in fight. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our mind. There's a star man waiting in the sky. Ci sono ancora soprattutto molte storie di guerra, probabilmente la prossima generazione non ce l'avrà più, perché gli ultimi nonni che hanno combattuto in Italia sono quelli di questa generazione qua. E quindi molte storie di guerra, come quella di Sandro che dice: mio zio fece la guardia al duce l'ultima notte, era partigiano, la mattina dopo il duce fu fucilato. Mio nonno lavorava alla Pirelli, un giorno lo fecero imbottigliare del vino a pancia vuota, si ubriacò e fece panico fra tutti rischiando il licenziamento. E ancora, mio nonno Ugo, seconda guerra mondiale, in Grecia, durante un turno di guardia uccise un asino che non si era fermato all'alt. Era notte e non si vedeva niente. Mi ricordo ancora il sollievo che ogni volta che raccontavo questa storia per non aver ucciso un uomo. Emanuele da Venezia. Le storie rituali che in casa vostra vengono sempre fuori a un certo punto del pranzi o delle cene, a Natale, ai compleanni o anche a Ferragosto. Quelle storie che in qualche modo vi fanno ricordare di appartenere a quella famiglia. Io sono qui. Ieri abbiamo fatto un pranzo di compleanno. I miei hanno una piccola casa in campagna vicino al mio paese, in una zona che è una riserva naturale in mezzo al parco del Ticino. È un bel posto ed è vivibile soprattutto in primavera, perché in estate la densità di zanzare per metro cubo è pari solo a quella delle goccioline d'acqua in un metro cubo di nebbia. Durante questi pranzi di famiglia, per festeggiare qualcosa o qualcuno, prima o poi si finisce sempre a raccontare qualche episodio del passato, dell'età giovane. Quella in cui si facevano cose che ai figli si possono raccontare solo quando sono diventati grandi. Ormai so bene che mio papà non aveva una gran voglia di studiare da ragazzo, al punto che chiese lui di essere mandato in un collegio in Valsesia, dove non aveva via di fuga. So che mio zio, che ha 4 anni più di lui, era obbligato da mia nonna ad andare a cercarlo quando di notte non tornava a casa e rimaneva con gli amici a chiacchierare in piazza sotto la statua del santo patrono. Poi a un certo punto del pranzo, ieri è uscita una foto in bianco e nero di quelle scattate chissà da chi, che sembra sempre poco importante, però non lo è, visto che se quella foto è lì racconta qualcosa, è anche grazie a qualcuno che era lì e in quel momento l'ha scattata quella foto. Insomma, in quella foto mio padre tiene in braccio mia madre, sono seduti al tavolino di un bar su una spiaggia. Tutte e due sono in costume e stanno guardando da un'altra parte. Non sorridono, forse hanno litigato o stanno pensando a qualcosa che li preoccupa. Sono più giovani di me in quella foto. Guardando la foto, mia mamma ha detto che erano al mare di nascosto da tutti, compresi i colleghi di lavoro e la famiglia, perché si erano conosciuti in ufficio. Però il lunedì qualcuno si era insospettito perché erano entrambi scottati dal sole nello stesso modo. E poi a un certo punto l'ho proprio chiamata. Dopo le fregole col gelato ho chiesto a mio padre di raccontarla. Di raccontare la mia storia preferita, quella dello svenimento nel vicoletto. Perché tutti alla fine abbiamo una storia che chiediamo di ripetere ai nostri genitori. Un episodio che loro raccontano volentieri e che noi stiamo a sentire ogni volta con un gusto maggiore. Come se assaporassimo sempre meglio i dettagli, le sfumature, come a volere ripercorrere sempre meglio quel pezzo di vita che ormai ci appartiene. Quello di mio padre è l'episodio della Bianchi e del vicoletto. Dunque, mio padre ha circa 10 anni. Vengono inaugurate le scuole nuove, l'edificio delle scuole elementari che ho frequentato anche io e che si trovano proprio in fondo alla via dove abitano i miei. Insomma, come tutte le inaugurazioni, girano salatini, torte e un po' di alcol. Mio papà si aggira per il paese con una piccola bici da corsa, è una Bianchi celeste, proprio come quella di Fausto Coppi, la bici a cui tutti pensano quando pensano ad una Bianchi. Lui passa tutta la giornata tra le scuole, la piazza e i due bar del paese. non si sa bene quali alcolici consumi, visto che di volta in volta nei racconti i nomi degli alcolici e le gradazioni alcoliche soprattutto cambiano continuamente. L'unica cosa sicura è che quando è il momento di ritornare a casa, lui inforca la sua biciclettina da corsa e torna verso casa sua. La strada è brevissima e passa attraverso un vicolo stretto nel centro del paese. Mio padre ci si infila in quel vicolo, ma non riesce a pedalare. La vista gli si annebbia e rallenta sempre di più, finché non si appoggia al muro di una casa che costeggia la viuzza e finisce a terra. Verrà recuperato non si sa esattamente quanto tempo dopo da mio zio, che lo va a cercare spinto da mia nonna. Non si è mai capito nemmeno se sia svenuto o solo addormentato. Ma ieri, puntuale, dopo pranzo, festeggiando i suoi 65 anni, il racconto della bicicletta nel vicolo, è tornato a chiudere la giornata. Funerale di zio Vittorio. Mio nonno e suo fratello Nando, un ex pugile campione europeo degli anni 50, assistono dal fondo della navata. Sono arrivati per ultimi, non hanno avuto modo di confessarsi. È il momento della comunione. Nando, preso dall'emozione del momento, va a prendere l'ostia. Mio nonno lo insegue e gli grida dietro dal centro della navata: "Ma dove vai? C'hai i peccati!" Pronto, Vissia? Eccola. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Grazie mille per essere qui. Senti, questa storia ti fa ridere perché è la prima volta che la senti raccontata da qualcun altro, probabilmente. Sì, mi dispiace per zio Vittorio, ma a me fanno sempre ridere, ci fa ridere a tutti quanti. Senti, innanzitutto, Vissia che nome è? È uno pseudonimo? O... No, è il mio nome, è un nome vero e è un nome latino. Ah, che significa? Quella che ha avuto una visione. Ah, ok. Da vis... no, da vis video. È forza. Da video, da videor. Videor, esatto. Vis, vissi. Vabbè, niente, so, perdona Vissi, ma anche chi se ne frega. Vissi, allora, tu sei napoletana? No, io sono di Roma. Ah, sei romana. Quindi, allora, la storia me la ricordi velocemente come la raccontava esattamente? No, io ero presente il giorno del funerale. Ah, tu eri presente al funerale, quindi quando succede questa cosa? Ma una decina di anni fa. Però, e quindi chi è che la racconta ai pranzi? La raccontiamo tutti quanti perché quelli, insomma, eravamo tutti presenti al funerale di zio Vittorio. Però in sostanza, mi ripeti chi sono i protagonisti? I protagonisti sono zio Vittorio, purtroppo. Certo. Mio nonno e il fratello di mio nonno, Nando. Ok. Ex pugile, campione d'Europa negli anni 50. E che si chiama? Ferdinando Iannilli. Ferdinando Iannilli, ok, qualche esperto di pugilato probabilmente lo saprà. Insomma, chi è che sta andando a prendere l'ostia? E non allora, praticamente nonno Cesare e Nando entrano per ultimi, non si sono confessati. E Nando, diciamo, in quanto prima donna, in quanto, diciamo, celebrità della famiglia, prende e va a prendere, diciamo, l'ostia senza, diciamo, curarsi del fatto che non, che non è confessato. Ok. Mio nonno Cesare, evidentemente in pena per l'anima del fratello, comincia e dal centro della navata comincia ad avvertirlo che è peccato. Certo. E c'hai peccati e non si può fare la comunione se uno c'ha i peccati. Insomma, l'ha presa o no quest'ostia alla fine? Alla fine l'ha presa perché il figlio di mio nonno, cioè mio zio, a un certo punto ha preso il padre e l'ha ritirato all'interno dei banchi dicendogli che le regole ormai sono cambiate e si può fare la comunione per quei peccati. Vissia, grazie molte, buona giornata. Ciao. Ciao, grazie, alla prossima. Andiamo da... oddio, Luciana. Pronto, Luciana? Ciao, Matteo. Ciao, Luciana. Senti, raccontamela direttamente tu la storia che mi hai scritto prima su Facebook, è molto divertente. Niente, non è un racconto, è una storia vissuta perché testimoni tutti di questa esperienza di mio padre. Però che tuo padre racconta ogni volta? No, mio padre non lo racconta più, quando lo raccontavamo si indispettiva un po' perché ha fatto un po' la figura del... Perché del non c'è più... Non soprattutto... Non c'è più tuo padre. Ok. Infatti, insomma, sì. Qual è la storia del collirio? La storia del collirio è che, niente, mio padre non è la storia del collirio, è la storia del lassativo. Mio padre per un periodo va incontro a un periodo di stitichezza, di stipsi, ok, sì. E allora niente, segue, decide di prendere il Gutalax per una serie di giorni, okay. Prende questo Gutalax e non succede niente, aumenta le dosi del Gutalax 1, 2, 3, 4, 5 giorni e non succede nulla, finché il quinto giorno, prima di andare a dormire, va in bagno per mettere il colliere, lo sentiamo urlare come un pazzo, andiamo tutti quanti in bagno a vedere cosa succede, praticamente aveva la bottiglietta del Gutalax che usava come collirio e che ha usato per 5 giorni come collirio, e il collirio usato come Gutalax, quindi continuava ad aumentare le dosi del collirio chiaramente non sortendo alcun effetto. Luciana, grazie mille e un saluto al papà. Grazie a voi, ciao, buona giornata. Ciao. Andiamo, ce la facciamo velocemente, strettissimamente. Paola D'Arecco, pronto Paola? Ciao, sono io. Ciao, sei voglio tu. ricordare insomma la storia di mio nonno, appunto deportato in un campo di concentramento, si è imboscato, per cui aveva conosciuto questa infermiera, mio nonno di bell'aspetto, tra l'altro, aveva conosciuto questa bella infermiera, e con i suoi due compagni a distanza di non so quanto tempo sono riusciti praticamente a scappare e ritornare in Italia. Quante volte la raccontava Paola questa storia? Guarda, a me l'hanno raccontata mia nonna, perché non ho avuto l'occasione di conoscere. Mio nonno è morto quando io ero in tenera età, per cui però la nonna, la mamma la ricorda più volte. Paola, ti ringrazio moltissimo, ciao e buona giornata, perché mi sa che abbiamo veramente finito. Grazie a tutti quelli che sono di là, a tutti quelli che sono di qua, domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?